Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. È Gianluca Dettori quello che abbiamo di fronte a noi, presidentissimo di Primo Miglio SGR. Un punto di riferimento in Italia, Gianluca, e ovviamente la sua società di conseguenza, per tutto quello che riguarda il finanziamento alle imprese, alle start-up, soprattutto all'innovazione. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gianluca, io volevo un attimo fare un po' il punto della situazione con te. È passata, come dire, sono quasi passati 20 anni dalla bolla del 2001 e ci guardavamo ancora senza i capelli bianchi reciproci, guardavamo le startup come degli esseri un po' strani. Oggi il mercato è molto cambiato. Cosa sta succedendo in America? Sta succedendo in America, adesso è una fase negli Stati Uniti un po' di ripensamento. Ci sono stati ultimamente gli scandali di WeWork, in generale diciamo si sta un po' ritornando secondo me sui fondamentali. Diciamo che c'è stato negli ultimi anni una bolla da un certo punto di vista di quello che noi chiamiamo il later stage, cioè gli investimenti molto grandi, centinaia di milioni in società che comunque sono ancora delle start-up. E questo legato anche a alcuni fatti tecnici, per esempio i grandi fondi pensione che hanno cominciato a fare investimenti diretti in startup anziché investire in fondi. Diciamo che il mercato sta un po' un attimo riguardando i fondamentali di queste aziende, perché poi alla fine non si può essere startup tutta la vita. A un certo punto, quando le aziende prendono una certa massa critica e dimensione, devono essere aziende normali tra virgolette, anche se molto tecnologiche, e quindi vengono misurate sui fondamentali, sui multipli dei profitti, sui multipli legati alla crescita, alle prospettive e ai numeri veri. C'è qualche freno anche alle quotazioni, visto che Slack sta un po' ripensando se quotarsi quest'anno, aspettare un attimino, visti anche i risultati di Airbnb e comunque delle ultime quotazioni di unicorn in borsa, no? Esattamente questo, vedi come effettivamente il mercato sta guardando queste aziende. Insomma, leggevo dei commenti che Airbnb non mi risulta essere ancora profittevole, che uno si dice scusami, ma come fai? Sei Airbnb, dovresti fare dei profitti mostruosi. Quindi diciamo questa mitologia un po' dell'unicorno è un po' sta scemando e si torna a pensare a aziende tecnologiche ad alto potenziale, venture capital, ma tornando a guardare ai fondamentali delle imprese. Non c'è, secondo te, anche un po' di luddismo digitale in questo modo di approcciare, ossia il cercare di fermare il nuovo che avanza, Airbnb, Uber, tutte piattaforme che hanno disintermediato, ma soprattutto hanno creato nuovi modi di fare mercato che si ritrovano dall'altra parte ad avere ostacoli. Io leggevo proprio ieri, per esempio a Parigi, dopo che c'è stato l'annuncio di Airbnb che finanzia con $500 milioni le prossime Olimpiadi, i prossimi 10 anni di Olimpiadi come sponsor, il fatto che tutti gli hotel, le hotellerie parigine hanno alzato le barricate e hanno detto no passaran, non so come dire, no? Quando l'innovazione è radicale rompe le scatole, quando l'innovazione è radicale rompe le cose, riscrive un po' le regole dei mercati, quindi è naturale che ci sia, come dire, ostilità rispetto alle cose nuove. Pensa a Uber, Airbnb è un bel esempio, però in effetti l'innovazione è ineluttabile, cioè è una di quelle cose che se non lo inventavano i fondatori di Airbnb qualcun altro lo avrebbe inventato, in realtà lo stava già inventando, quindi diciamo che è normale. Il mercato stava andando verso quella direzione. Quando si possono fare le cose qualcuno le farà, se queste cose portano dei vantaggi. Pensiamo a Airbnb, sono milioni di persone che oggi possono affittare le loro case, stanno cambiando le destinazioni turistiche, stanno cambiando i flussi turistici anche grazie a Airbnb, e questo comunque è un fatto positivo. È chiaro che se tu avevi un albergo e ti trovi la concorrenza di centinaia di stanze, diciamo, nel tuo mercato, improvvisamente questa cosa ti dà fastidio. Chiaro. E in Europa invece che cosa sta accadendo? In Europa, secondo me, in questo momento è visto come un mercato emergente interessante. Molti investitori vedono al fatto che in Europa ci sono tutto sommato delle valutazioni attrattive rispetto al mercato, per esempio, americano. In Europa c'è tecnologia fondamentale molto importante, c'è un'ottima infrastruttura accademica universitaria, c'è ricerca di base molto importante, e quindi la combinazione disposta di queste cose lo rende un mercato attrattivo. Se negli Stati Uniti gli hub come Seattle, Austin, Raleigh o la stessa Silicon Valley sono motori propulsivi di spinta verso startup, non solo in ambito marketing and sales, ma anche in ambito biotecnologie, finance, piuttosto che medicina e via dicendo, quali sono quelli di riferimento invece in Europa? In Europa sicuramente Berlino continua a essere probabilmente il polo di riferimento europeo. Parigi è molto importante, ma quello che citavi è interessante perché anni fa era fondamentalmente solo la Silicon Valley e Boston in realtà gli hub di innovazione, ma oggi in realtà negli Stati Uniti c'è New York, c'è Austin, Texas, ci sono molteplici poli di innovazione, Los Angeles dove sono nate tantissime startup media. E ognuno di questi hub ha trovato una sua, in qualche maniera, identità, una sua specializzazione. Ecco, forse l'Europa è un po' alla ricerca di questo, più che pensare un mega hub europeo, Parigi, Milano, Berlino, potrebbero trovare una loro identità, un loro focus. Londra, incominciamo a sentirla fuori da questo circolo e fa parte, come dire, di un'isola che avrà delle relazioni con l'Europa o è ancora, grazie al digitale, comunque molto legata alla nostra cultura? No, Londra ovviamente è il polo di riferimento, è uno dei principali hub di innovazione in Europa, ma Londra ha sempre viaggiato in tandem con gli Stati Uniti. Gli investitori americani, la prima cosa che facevano i fondi di venture capital, aprivano a Londra. Diciamo che con Brexit un po' in qualche maniera si è messa un po' fuori, perché comunque la situazione di incertezza ha portato per esempio molti fondi ad aprire in continente. Ci sono però poi delle piccole isole felici, interessanti, quali i Nordics in Scandinavia, Stoccolma banalmente, piuttosto che nei Baltics, l'Estonia, che è probabilmente la nazione in Europa più digitalizzata, sicuramente a livello di pubblica amministrazione, tant'è che hanno il problema opposto rispetto a noi, sono talmente digitalizzati che i loro documenti elettronici non sono riconosciuti all'interno dell'Unione Europea perché il resto dell'Europa è indietro. Ma se tu dovessi dare, se ti chiedessero un consiglio dei ragazzi o dei giovani imprenditori italiani che fanno fatica qui in Italia, dove gli consiglieresti di andare? Vabbè, io gli consiglierei di provarci in Italia a rimanere, però, come dire, ma in realtà ci sono degli hub emergenti, per esempio in Portogallo, per esempio c'è un'ottima politica governativa sulle start-up che sta facendo buona attrazione, la Polonia sta crescendo tantissimo perché hanno grandissime capacità nel campo dell'IT, dello sviluppo software, nei settori della security, hai parlato di Svezia, Copenaghen è sicuramente molto viva, conosco diverse start-up che sono a Copenaghen e si trovano molto bene. Ma diciamo che in realtà non c'è una risposta singola e bisogna anche un po' guardare a quello che si fa e qual è il senso di, se si vuole andare all'estero, di andare dove e per quale ragione. Però fare imprese in Italia per uno che incomincia è sempre più difficile che non farla all'estero, per quello che spesso magari i ragazzi incominciano a pensare vado a Dublino, vado a Londra, vado a Parigi, vado a Berlino, perché effettivamente in 448 fai un'azienda, i costi sono chiari o sono più o meno chiari, le tasse sono chiare, insomma non ci sono tutti quei vincoli di quale si fa fatica qui, no? Beh, fare startup in Italia, fare imprese in Italia sicuramente è un'impresa. È un'impresa, è un po' più in salita che da altre parti. Però diciamo, io comunque insomma faccio questo mestiere in Italia da tanti anni e credo nella potenzialità. È chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare. Per esempio, una cosa importante, bene o male, l'accesso al talento in Italia è eccellente, cioè può essere magari, come dire, un po' cinico da un certo punto di vista, ma la disoccupazione fondamentalmente è un fattore, diciamo, di traino importante per le startup. Se tu cerchi uno sviluppatore, non sono facili da trovare, ma nello sviluppo software, gli ingegneri, le competenze scientifiche, ma anche il marketing hanno dei costi, diciamo, molto molto competitivi rispetto all'estero. È chiaro che forse il tema principale che un po' affligge l'Italia è ancora la limitato capacità di investimento del sistema sulle startup. Arriviamo invece all'Italia. Che cosa vede prima gli SGR? Cosa gli arriva sulla scrivania? Ma noi riceviamo 800 business plan all'anno, chiaramente siamo specializzati nel seed early stage, quindi diciamo investiamo da 200.000 euro a 2 milioni di euro in startup che sono molto nella fase iniziale. Oggi ci sono una dozzina di SGR specializzate nel venture, già solo questa cosa non esisteva anni fa, ma noi vediamo un po' di tutto, siamo onnivori nel campo del digitale, non siamo degli specialisti, poi amiamo più certi settori che non altri, ci piace molto il software B2B, il software as a service, ci piace molto il big data, l'intelligenza artificiale, ovviamente bisogna poi vedere in che campo viene applicato, certo. Ci piacciono molto i marketplace, abbiamo fatto aziende come Cortilia, Brandon Group, Sardex, insomma cerchiamo delle cose che comunque hanno una potenzialità possibilmente internazionale, che quindi diciamo partono dall'Italia ma hanno una prospettiva. Possano scalare quindi. Potenzialmente possano scalare. E quali errori non devono fare gli imprenditori che vengono a presentarvi un'idea, un business plan? Beh, innanzitutto devono essere determinati e motivati in quello che fanno. Noi alla fine, quando investiamo, nella fase in cui investiamo, cioè nella fase iniziale, non abbiamo niente da guardare se non delle prospettive e un team di fondatori che ha delle ambizioni. Quindi la cosa che ci interessa capire è la chimica che c'è tra di loro, che cosa li motiva, dove vogliono arrivare, che tipo di azienda vogliono fare. Dobbiamo avere fare un grande sforzo di immaginazione per immaginare, nella durata di un fondo come il nostro, che dura 10 anni, dove vuole andare questa squadra. Ovviamente ci deve essere un'idea di business che ha un senso, in cui crediamo, ci deve essere un'opportunità di mercato che anche noi in qualche maniera condividiamo. L'ingenuità forse principale è a volte pensare che sia facile. In qualche maniera bisogna sempre avere un piano B, bisogna sempre pensare che le cose non andranno come vorrai. E l'altra cosa sicuramente è bisogna focalizzarsi moltissimo, specie nella fase iniziale, nell'individuare chiaramente lo spazio di mercato che si vuole andare a occupare. Sei stato ultimamente ospite del Mobility Think Tank di EY qui a Milano e hai parlato appunto di early stage e di finanziamento alle startup sul mondo della mobilità. In un mercato come questo, dove in realtà i key player sono veramente dei giganti, qual è il ruolo della startup e come fa a competere / collaborare con questi dinosauri giganteschi da billion e billion di euros o di dollari e da strutture organizzative e mentali estremamente articolate e spesso molto vecchie? Come fanno sempre le startup? Se uno guarda una startup è un incumbent, diciamo così, un'azienda diciamo esistente, tradizionale. In realtà la startup sembrerebbe non aver nessuna potenzialità di farcela, nessuna possibilità, non ha un brand, non ha dei clienti, non ha un prodotto, non ha un mercato, non ha niente essenzialmente. Però per contro è proprio questo non aver niente che consente alla startup di fare quello che un'azienda tradizionale non può fare, cioè innovare in maniera radicale. In fondo una startup non ha una legacy, non si porta dietro un bagaglio, una zavorra, e può riscrivere le regole di un mercato. Ma prima citavi Airbnb. Come era possibile immaginare che, insomma, due ragazzini che si sono messi a affittare con un materassino gonfiabile, no, per arrotondare lo stipendio, avrebbero riscritto le regole di un intero settore? Cioè, se tu eri Hilton e stavi lì davanti al mercato con le tue 80.000 stanze, probabilmente non ti rendevi conto che da qualche parte c'erano dei ragazzini che fondamentalmente si sono messi a inventare un nuovo business nell'ospitalità, e quando te ne sei accorto, quelli avevano 8 milioni di stanze, non avevano neanche un albergo, non avevano i concierge, non avevano i canali distributivi, non avevano niente, avevano accesso diretto a milioni e milioni di consumatori, avevano tutti i vantaggi di quel business model del mercato senza avere tutti gli svantaggi. Quindi diciamo, se tu eri Hilton a questo punto hai un qualche tipo di problema, hai le infrastrutture, hai gli alberghi, hai i concierge, hai i costi fissi. Loro è no. Vero che questo è un mercato, il mercato delle hotellerie, che sta ormai da decenni, si sta, come dire, comprimendo, non tanto contraendo ma si sta aggregando. Però è altrettanto vero che ci sono anche player molto piccoli. Nel mondo dell'automotive invece i player piccoli fondamentalmente non esistono. Non possiamo inventarci te domani, un brand che produce auto, perché il costo della produzione di un'auto, di una linea di produzione di un'auto, è enorme. Ma soprattutto è un mercato totalmente anelastico, dove non si può lavorare conto terzi, cioè non possiamo andare sugli impianti di produzione di Fiat e dirgli per favore fammi una macchina disegnata in questa maniera. Quindi forse è ancora più difficile. E allora ti chiedo, dalla tua ottica, il futuro dell'automotive sarà ancora costruire o cosa sarà? Sapessi la risposta, caro Pepe, probabilmente non saremmo qua a parlarne. Ma il futuro dell'automotive è sicuramente diverso dal presente, perché ormai siamo chiaramente a un punto di flessione di questo settore, dovuto a tantissimi fattori, a fattori di consumo, a fattori tecnologici, a appunto anche il fatto che esistono oggi modi di guardare la mobilità integrata, smart, completamente diversi, al fatto che arrivano i millennials e la generazione Z sul mercato, che si aspetta di avere un servizio di trasporto accedibile al telefonino in ogni momento, non necessariamente se proprietario di un'automobile o di un mezzo di trasporto, che ha una sensibilità ambientale diversa. E poi c'è un altro aspetto tecnologico fondamentale, che man mano che si va verso le auto, diciamo così, che guidano da sole, o comunque questo tipo di tecnologie, l'automobile sembra più un'app che un oggetto di ferro, sembra più, e lì i fattori competitivi chiave sono l'intelligenza artificiale, la capacità di avere visione artificiale, le conoscenze informatiche e tecnologiche, più che non necessariamente solo quelle di produzione. Ci sono startup cinesi in questo campo pazzesche come Didi, che è un po' considerata l'Uber cinese, che appunto grazie al fatto che oggi hanno in mano milioni e milioni di consumatori cinesi, ormai stanno pensando nuove tipologie di automobili pensate per quel tipo di mobilità che faranno produrre conto terzi. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Io ti ho conosciuto che eri fondatore di Vitaminic, da fondatore di una startup a imprenditore di un'azienda strutturata. Qual è il passo e come si diventa imprenditori oggi? È difficile sempre fare il passaggio da startup a azienda. C'è un momento nella vita di ogni startup, se le cose sono andate avanti, in cui quella fase iniziale molto creativa delle organizzazioni piatte, in cui, come dire, tutti si parte e si collabora insieme, non è più adatta alla vita di un'azienda che invece è strutturata a centinaia di persone, deve rispondere a degli analisti, a degli investitori in maniera organizzata, e quindi fare quel passaggio lì è sempre difficile, perché è un cambio di mentalità, è un cambio di organizzazione, servono competenze diverse, bisogna darsi un'organizzazione. Tutte le startup vivono, che crescono, vivono a un certo punto quel momento, e quello è uno dei momenti più difficili della loro storia in genere. Ringraziamo dunque Gianluca Dettori, presidente di Primo Miglio SGR, per essere stato qui con noi e aver condiviso con noi il suo punto di vista. Grazie, grazie Pepe. Ringraziamo dunque tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, Carmelo dall'altra parte del vetro che ha permesso la realizzazione di questa ricca puntata. Un saluto da Pepe Moder. Thank you.